Il problema morte da dove viene? E abbiamo già imparato con i primi approcci a queste letture che con la morte Dio non c'entra niente. Dio non ha creato la morte, non gode per la rovina dei viventi. Abbiamo sentito affermare chiaramente dal Libro della Sapienza che di fatto è un commento e una glossa a quanto la rivelazione narra essere avvenuto con il peccato originale, la minaccia della morte combinata da Dio all'uomo qualora avesse peccato, e la realtà della morte dopo il peccato. Tu sei polvere e in polvere ritornerai. Tema che poi San Paolo, nelle lettere Romani, come abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo chiuso con queste considerazioni, nel capitolo 5 e nel capitolo 6, afferma esplicitamente, quindi è in maniera abbastanza inequivocabile, incontrovertibile, il nesso, la relazione tra il peccato e la morte. Abbiamo già accennato a tutte quante le implicazioni presenti in questa grande verità. Perché se il peccato è la causa della morte corporale, che è il sommo male in questo mondo, cioè tra i mali che si chiamano in teologia fisici, la morte è il peggiore di tutti. Tutti sono terrorizzati dalla morte, tutti cercano di esorcizzare il problema morte, l'abbiamo visto la volta scorsa, molti cercano di esorcizzarlo, ma la morte è una realtà. E se la morte viene dal peccato, il peccato è qualcosa di molto grande. Ma non solo. La relazione peccato-morte non si chiude, cioè, beh, è finita ormai, fatto peccato originale, è arrivata la morte, quindi la morte è una realtà ormai diventata ineluttabile, però vabbè, a questo punto se faccio qualche altro peccato, la morte resta lo stesso, quindi la posso fare tranquillamente. Eh no, è proprio no, perché il peccato è causa della morte fisica, anzitutto. E questo è il peccato originale in particolare. Ma ogni peccato dell'uomo, quindi ogni peccato attuale, è causa della morte, potremmo definirla ontologica, forse è una parola un po' non proprio del tutto adatta, perché. Ma la morte dell'anima, sì, è corretto. Perché l'anima muore quando perde la grazia di Dio, e la grazia di Dio si perde con il peccato, appunto, che si chiama mortale. Perché il peccato si chiama mortale? Perché produce un'ulteriore morte, una morte, attenzione, più grave della morte fisica. Perché la morte prodotta dal peccato attuale che noi commettiamo in questa vita, insegna la Chiesa, ha come effetto questo, che qualora la morte corporale sorprenda l'anima in stato di morte alla grazia, le parole di Gesù nell'Apocalisse, no? Conosco le tue opere, ti si crede vivo e invece sei morto. Se ti trova in questo stato la morte, e poi c'è un problema grosso, perché c'è una terza categoria di morte, che è la morte eterna. Quindi, quando noi diciamo morte, dobbiamo subito specificare, ma di che morte stiamo parlando? Di morte corporale? Questa San Francesco addirittura la chiamava sorella. Quindi, siamo sicuri che questa morte corporale sia il male assoluto? Poi c'è la morte innescata dal peccato cosiddetto mortale, che è la morte dell'anima, è l'anima morta alla grazia, che ha perso la grazia santificante ricevuta nel battesimo. E poi c'è la morte eterna. Questo è il sommo male da temere, la morte eterna, non la morte corporale. Ma la morte eterna è un male conseguenza, quindi non è che dici se io temo la morte eterna, essa starà lontano da me perché la evito. No. Se temi la morte eterna, questa non starà lontana da te. La morte eterna starà lontana se tu temi di offendere Dio, se tu temi il peccato. Lo temi nel senso che ne stai alla larga come dalla peste bubbonica. Insomma, in poche parole, per noi figli di Dio il problema non è la morte. La morte non è un problema. Il problema è il peccato. Quello è il sommo male. Faccio qualche pausa perché quando faccio queste affermazioni noi dobbiamo assolutamente confrontarci con queste. Io non sto adesso, non sto assolutamente formulando mie opinioni personali o mie idee. No, no. Basta aprire il Catechismo della Chiesa Cattolica, adesso lo vedremo qualcosa, no? O i documenti autentici del Magistero autentico della Chiesa, prima fra tutti il Concilio di Trento, che vedremo anche questo adesso. Ecco perché i santi, penso che lo sappiamo, avevano come slogan la morte, ma non il peccato. Oppure, oggi è la festa del grande San Gennaro, oh, martire. Come fa un martire a morire martire? Se la morte fosse il sommo male, ma nessuno morirebbe martire. Ma la morte non è il sommo male. Perché per un figlio di Dio la morte addirittura può essere oggetto, se si tratta di morte gloriosa, come nel caso del martirio, oggetto addirittura di desiderio. Noi non ci rendiamo conto perché oggi siamo, ahimè, una masnada di miscredenti. E Dio voglia che non mi ci debba mettere pure io dentro questa masnada per una fede non perfetta o languida. Dio me ne scampi e liberi, speriamo di no. Ma quando la fede c'era, morire martire era oggetto di desiderio, di preghiera addirittura. Anche qui, cioè, dobbiamo sempre chiederci quali risonanze interiori mi produce la rievocazione di queste affermazioni, cioè di queste constatazioni. Anche questo basta andare a leggere gli atti dei martiri, sono pubblicati, quindi non c'è anche il martirologio romano per chi volesse andarsi a fare un'istruzione. Quindi non è che tutto tranquillamente tracciabile e documentabile. E io che penso dinanzi a questo? Ora, Concilio di Trento. Sapete che il nesso morte, il nesso peccato morte, ma anche tutta quanta la teologia del peccato originale era stata una delle questioni ampiamente stravolte dalla teologia, prima luterana e poi evidentemente attraverso vari rami, forme e modalità più o meno distinte, però nei concetti essenziali c'è poco da distinguere, no? Il Concilio di Trento, quindi combattendo l'eresia luterana, afferma: chi non ammette che il primo uomo Adamo, avendo trasgredito nel paradiso il comando di Dio, ha perso subito la santità e la giustizia nelle quali era stato creato, ed è incorso per questo peccato di prevaricazione nell'ira e nell'indignazione di Dio e quindi nella morte che Dio gli aveva prima minacciato. E con la morte, nella schiavitù di colui che in seguito ebbe il potere della morte, cioè il demonio, e che Adamo per quel peccato di prevaricazione fu peggiorato nell'anima e nel corpo, sia anatema. Ecco le formulazioni del Concilio Tridentino, come di molti concili classici, diciamo così, specialmente quelli dogmatici, si esprimevano sempre in termini molto, molto apodittici e perentori. Questa è la verità cattolica. Cattolica non è che significa che è una delle tante verità. La verità cattolica è la verità, perché noi seguiamo colui che ha detto io sono la verità, e nella Chiesa c'è la verità, non una verità. Questi rischi causati da una mal attuazione o mal comprensione del dialogo interreligioso, la verità cattolica non sarà mai una verità, ma è sempre solo la verità. Diverso è il discorso che tu non puoi imporla a tutti a bastonate. Questo è un altro discorso, questo qui. Ma non poterla imporre a bastonate non significa abdicare dal dire questa è la verità. Per farla propria ci vuole un atto di fede, ci vuole una conversione. Però la verità bisogna dirla, amici miei. Ora, per chi c'è qualche allergia al colcino di Trento, perché pare qui che tra le forme moderne di allergia, pregate per me perché a me è cominciata adesso a risorgere la mia, quindi speriamo che non facciamo qualche cinematografo in diretta o durante la catechesi, con starnuti a retrocarica con propulsione interna. Speriamo di no. Però siccome va di moda scaricare il Concilio di Trento e per carità la peste bubbonica, prendiamo due citazioni, una citazione del Concilio Vaticano II e una del Catechismo della Chiesa Cattolica, su cui dovrebbero essere d'accordo tutti. Gaudium et Spes 18 dice che la fede cristiana insegna che la morte corporale, dalla quale l'uomo sarebbe stato esentato se non avesse peccato, sarà vinta un giorno. Dalla quale l'uomo sarebbe stato esentato se non avesse peccato. L'immortalità, secondo la sana dottrina cattolica, infatti, era uno di quei doni liberamente elargito dall'Altissimo, si chiamano i doni preternaturali, cioè quelli che superano le condizioni naturali della creatura e che avrebbe conservato l'uomo solo se non avesse peccato. È evidente che avendo peccato, perso questo dono preternaturale in questa vita, ma questo dono potrà essere riacquisito, non solo un giorno, ma in forma molto molto più perfetta. Perché appunto la risurrezione della carne, Cristo risuscitato dai morti, non muore più, quindi non rende, come dire, immortali per grazia. Cioè, quando speriamo di partecipare alla risurrezione nella gloria, vedremo a suo tempo che la risurrezione non è a senso unico, eh? La risurrezione è per la gloria o per la condanna. Per la gloria, la morte sarà ingoiata per sempre, dice la Sacra Scrittura. Vuol dire che non c'è più potere su di te. Non morirai mai più. E noi dobbiamo confrontarci con queste cose, amici miei. Perché se uno non ci crede, il discorso è bello che è finito. Lo possiamo finire qui. Il Catechismo della Chiesa Cattolica al 1008, 1008, non 1008 nel senso di abbreviazione di 1800, proprio il numero 1008, afferma, interprete autentico delle affermazioni della Sacra Scrittura e della tradizione, il Magistero della Chiesa insegna che la morte è entrata nel mondo a causa del peccato dell'uomo. Sebbene l'uomo possedeva una natura mortale, Dio lo destinava a non morire. La morte fu dunque contraria ai disegni di Dio creatore ed entrò nel mondo come conseguenza del peccato. Questo lo si trova scritto nel Catechismo della Chiesa Cattolica nel numero 1008. Non neanche il Catechismo Sapio X. Catechismo della Chiesa Cattolica. E se su questo non sono tutti d'accordo, io non ho proprio a che fargli, nel senso, no, che noi non possiamo stravolgere la Chiesa o il suo patrimonio, non si può. Chi lo fa, si mette fuori anche se rimane ancora dentro. E poi verrà un giorno, insomma, in cui si andrà a rispondere di quello che si è fatto, come vedremo anche durante questo ciclo di catechesi. Ad homine Dio, il quale, questo non dimentichiamolo mai, non fa preferenze di persone. Diciamo, ah no, ma io sono un prete, quindi. Ah no, ma io sono un vescovo, quindi. Ah no, ma io sono un cardinale, quindi. Pensate a certi personaggi, che Dio li abbia in gloria, speriamo che si possa augurare questo senza, ecco, offendere il Signore. Alcuni papi, insomma, hanno veramente non lasciato a desiderare di più, di peggio. Quelli sono stati giudicati da Dio. Anzi, più si va in alto, dice il libro della Sapienza, più il giudizio sarà rigoroso. Quindi lo stare in alto non è un'esenzione, capite? Come, ah, io siccome comando io, a me Dio non mi giudica e sottoscrive tutto quello che faccio. No, no, no. Mi dispiace. Ma la verità bisogna sempre dirla. Quindi, fissiamo bene che la morte è conseguenza del peccato e i tre tipi di morte, quindi la morte corporale, la morte dell'anima e la morte eterna. Ora, la morte non ha avuto l'ultima parola, perché a un certo punto è successo che è venuto sulla terra nostro Signore Gesù Cristo e la sua opera culmina nella vittoria sulla morte e sul peccato, dirà San Paolo. Ha vinto sulla morte e sul peccato. Leggiamo anche qui, anzitutto, qualche testo biblico veramente di riferimento fondamentale, qualche cult su questo tema, e cioè anzitutto la lettera agli Ebrei 2 versetti 14 e 15. Allora, è un passo molto molto famoso e molto importante. Leggo con la traduzione della CEI, ovviamente del 2008. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Questo è il primo grande brano che parla di questo argomento. La morte come conseguenza dell'esercizio del potere di Satana, che l'ha, come dire, instillata attraverso il veleno del peccato. Voi sapete che, per comprendere come la morte corporale non sia tanta sta tragedia, gli angeli non sono mai passati per la morte corporale, non serve per loro morire. Lucifero non è mai morto. Non è mai morto. E quindi può essere un grande problema la morte corporale? Credo che tutti quanti siamo d'accordo, sempre se rimaniamo nell'ambito della dottrina cattolica, che la dannazione esiste, che la morte eterna esiste, eh? E questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco, scrive San Giovanni nel libro dell'Apocalisse, e coloro che non erano scritti nel libro della vita andarono incontro alla seconda morte, e questo è lo stagno di fuoco, stagno di fuoco. Per il diavolo non c'è la morte corporale, ma lo stagno di fuoco, da mo che ci sta dentro, allo stagno di fuoco. Quindi questo teniamolo ben presente. La morte è per noi mortali, cioè che siamo fatti di carne e di sangue, si legge nella lettera agli ebrei. Essendo fatti di carne e di sangue, era possibile incorrere attraverso la morte. E quindi attenzione, cosa ha fatto nostro Signore Gesù Cristo? Noi queste cose dobbiamo capirle, figlioli miei cari, Dobbiamo capire nel senso che dobbiamo focalizzarle perché la nostra fede sia una fede capace di rendere ragione, ma sia una fede anche solida. Perché Gesù Cristo è morto in croce? Siete mai chiesti? Gesù Cristo è morto in croce per salvarci dal peccato. Ma. E perché? Uno potrebbe dire. Immaginate che ci fosse una persona che non è credente, viene da te e dice tipo, voglio diventare cristiano, voglio battezzare, voglio diventare cattolico. Fammi capire, ma perché Gesù Cristo è morto in croce? Allora, perché ha fatto due cose. Due. Ha preso su di sé, come diciamo ogni giorno durante la Santa Messa, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, ma l'espressione togliere l'ha preso su di sé, l'ha distrutto nella sua persona, perché così l'ha tolto. Allora, che cosa ha fatto? Tutti i peccati del genere umano, dal primo all'ultimo, ovviamente a cominciare dal peccato originale che pesa più di tutti, si sono scaricati sul nostro Signore, tutti, nella loro portata pestifera, mortale. E Gesù come ha fatto a distruggerli? Li ha presi, le conseguenze dei nostri peccati. Le ha pagate con infinita carità, dice San Tommaso d'Aquino. Oh, ma poi però c'erano le conseguenze estreme, che è quella che è proprio ineluttabile, la morte. Il Signore della morte, il responsabile ultimo della morte, il responsabile prossimo siamo noi, ma il responsabile remoto e quindi il responsabile ultimo della morte è il diavolo. Chi vuole che sia? Quindi l'affermazione, ah, ma se Dio esistesse non esisterebbe la morte, che non lo so, quando ero giovane qualche farfaglione, qualche chiacchierone lo andava blaterando, è una bestemmia grossa quanto una casa, ma è anche un fake, un falso grosso quanto una casa. Perché il Signore della morte, il signore della morte è il diavolo. Non certamente Domine Dio. Vi ricordate prima della passione Gesù che cosa dice? Adesso dobbiamo uscire. Viene il principe di questo mondo, questo è il Vangelo di San Giovanni. E aggiunge, egli non ha nessun potere su di me, il signore della morte. Su Gesù Cristo non c'era nessun potere. E perché? Perché? Punto interrogativo. Perché? Perché era Dio? È troppo facile così, no? È troppo facile. Gesù Cristo era vero Dio e vero uomo. Allora, certamente, in quanto vero Dio, non c'è nessuna possibilità che il diavolo lo possa sottomettere. Ma in quanto uomo c'erano le due carte da giocarsi, no? Il peccato originale, che figuriamoci se il nostro Signore l'ha contratto, ma c'era la possibilità del peccato attuale, che il nostro Signore non ha fatto. E quindi egli non ha nessun potere su di me, zero. Ma proviamo un attimo a fare un'applicazione un po' importante di questi principi, Questo è un ciclo di catechesi, cioè io vorrei anche che voi capiste come le grandi verità di fede sono tutte quante interconnesse. Il diavolo non ha potere su Gesù, perché? E sulla Madonna, perché? Perché senza peccato. Ma che significa? Significa che il peccato dà potere al diavolo su di te. E qual è la conseguenza di questo? Ma voi immaginate se una persona, se le persone oggi ancora credessero che il marchio maledetto del peccato originale rende il concepito, appena concepito, schiavo di Satana. Non è un'espressione, oh, mamma mia, che scherrazza di go, che dici? È schiavo di Satana, ma che è? Ma che esagerazioni! Liberare colui che è soggetto a schiavitù per tutta la vita, si legge in questo passaggio della lettera agli ebrei. Liberarlo. Allora, col battesimo noi non siamo liberati dalla morte corporale, perché quella come conseguenza il Signore ha stabilito che dobbiamo pagarla tutti, a prescindere dal fatto che ci battezziamo. Però che cosa cambia dal battesimo in poi? Cambia che dal giorno del battesimo in poi il diavolo, che ha avuto fino a quel momento potere, perché quella povera creatura aveva il peccato originale. Abbiamo letto nei giorni scorsi, facciamo una parentesi, durante una veglia di preghiera, una bellissima testimonianza, è il testo del padre Bamonte, la Vergine Maria, il diavolo negli esorcismi. Dopo, a un certo punto, il diavolo vomita, quindi canta. Dice: ma tu come mai che non hai avuto nessun potere su? Io non ci ho mai avuto nessun potere su quella lì, ma nessuno, dice lui. Perché? Perché non ci avevo nessun appiglio. Dove lo esercito il potere? Quella era una fortezza inespugnabile. Dove lo esercito? Il peccato originale non ce l'ha. Non ha commesso nessun peccato, non c'è neanche la macchia del peccato. Che cosa gli faccio? Ma voi capite quanto è importante quando uno capisce queste cose? Perché se non c'è nessun potere su Gesù Cristo, perché non c'è il peccato, come faccio io a fare in modo che il diavolo abbia meno potere possibile su di me? Zero non è possibile. Ma meno potere possibile, meno forza nelle tentazioni, meno possibilità di procurarmi male di origine malefica. Come faccio? Che devo chiamare qualcuno che si inventa chi lo sa quale formula strana per proteggermi con qualche magicissima benedizione dai poteri del diavolo? Attenzione, non sto sminuendo il potere delle benedizioni sacerdotali, lo dico sempre, lo dico queste cose qui, Anzi, fareste molto bene se trovaste qualcuno a farvi benedire più possibile, supposto evidentemente un vostro impegno nella vita di grazia, perché le benedizioni sono degli strumenti formidabili, sono sacramenti, non sono sacramenti, ma sono sacramentali. Il potere che il diavolo ha su di te è tanto quanto tu gliene dai. E guarda che se dai potere a quello lì, sono guai grossi. Ma più si pecca e più lui aumenta il potere. E attenzione, più aumenta il suo potere, più è difficile svincolarsi dalle sue catene. Perché ricordiamo anche bene un'altra cosa, Questo lo spiega benissimo San Tommaso d'Aquino. Tu fai un peccato mortale. Facendo un peccato mortale, tu ti sei suicidato, perché è un suicidio nella vita della grazia. E, amici, conoscete qualcuno che si è suicidato e poi è tornato in vita per virtù propria? Conoscete qualcuno? In questi giorni, chi va a messa tutti i giorni ricorderà che è stato letto il Vangelo della risurrezione del figlio della vedova di Nain. Ma quello non è risorto per virtù propria, quello l'ha risolto qualcun altro. Quindi, se un suicida è morto e non torna in vita, è un suicida dell'anima, secondo voi? Cioè, io posso dire: vabbè, faccio una bestemmia, mo dico una bestemmia. Poi però domani mi vado a confessare, rientro in grazia, c'è su problema, è problema c'è. Oppure un peccato un pochino più attraente, vado a far commettere qualche impurità perché insomma mi sento un po' su di giri. Tanto poi mi confesso. Guardate che il diavolo è veramente tremendo. Tu non puoi fare questo discorso qui, ma non soltanto perché è un discorso che il Signore non accetta mai, perché il Signore non è morto in croce versando tutto quanto il suo sangue e lasciandoci il sacramento, che per questo, perché io irrido o abuso della sua bontà dicendo vabbè, tanto c'è la confessione, quindi pecchiamo e dopo andiamo a confessare. Non funziona così. Non funziona così, amici. Gesù è morto perché chi cade, perché vinto dal diavolo, perché debole in qualche peccato mortale, possa uscirne fuori. Ma non ne esci con le gambe tue. Non ne esci con le gambe tue. Questo noi ce lo dobbiamo mettere in testa. Cioè, andarti sinceramente a confessare dopo che hai commesso un peccato, sappi e ricorda che è una grazia dell'Altissimo. Qualcuno ha pregato e ha fatto sacrifici per te, perché per quanto sta in te, tu eri morto. E Dio non c'ha nessun dovere di ridarti quella vita che colpevolmente hai perso, perché eri stato avvertito. Non fare questo, non fare quest'altro. E se dice, ma io non conoscevo i comandamenti, dico, no, no, no, no. I comandamenti forse non te li ricordi tutti, non li hai approfonditi, già questa è colpa. Ma noi abbiamo un comandamento vivente e che parla H24 dentro il nostro cuore e che dobbiamo imparare ad ascoltarlo. Di più, perché quasi nessuno lo fa, che è la coscienza. Che va esaminata per vedere, almeno per quanto ne sono consapevole, siccome quanti peccati ho fatto anche oggi o prima che mi vado a confessare, no? Quindi, allora, per chiudere questa parte, no? Se io credessi veramente che il peccato è la causa di tutti i mali, è la causa della morte dell'anima e la causa del potere che il diavolo prende su di me. Cosa significa? Sapete cosa significa? Quando il diavolo prende potere, ma il diavolo non è mica come Dio, eh? Ah, il diavolo è un tiranno, il diavolo è un dittatore, il diavolo che è cattivo. Se lui prende potere sulla tua anima, lo sai che cosa serve questo? Sì, a farti del male, anche in questo mondo. E tu dici, ma Dio sta a guardare? No, Dio non abbandona per grazia e per misericordia quella creatura. Le darà presumibilmente, a meno che non ci sia veramente una situazione borderline, opportunità ulteriori di conversione e di grazia. Ma questo non deve diventare uno strumento con cui il peccatore dice, vabbè, tanto e quindi posso confessarmi tutte le volte. No. Il sangue di Cristo non è acqua, non possiamo mettercelo sotto i piedi. Vuoi stare alla larga dalle conseguenze del peccato, dalle disgrazie, dalla morte, dalla disoccupazione, da che ti viene qualche brutta malattia di cui sei tanto spaventato e chi lo sa che succede quando mi viene. Attenzione, il potere del diavolo su di noi dipende da noi. Allora, andiamo avanti che c'è un altro brano significativo ed è il seguente. Primo Corinzi 15, 3. Primo prima lettera ai Corinzi 15, versetto 3. Lo leggiamo insieme. Vi ho trasmesso quindi anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati. Spero che dopo questa sera capiamo un po' meglio questa cosa, no? Il peccato è la causa della morte, io prendo la morte, mi faccio distruggere dalla morte, perché distruggendo la morte, distruggerò anche la causa della morte. Disattivo. Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Ecco la vittoria sulla morte apparve in seguito e ai dodici. Vedi perché è così importante la risurrezione di Cristo, che certamente è la verità principale, più importante della nostra fede. E per capire perché San Paolo scrive anche questo, che va a messa tutti i giorni, l'abbiamo sentito qualche giorno fa. Guardate che se Cristo non è risorto, la nostra fede è vana. E che cosa aggiunge? Voi siete ancora nei vostri peccati. Perché se Cristo non è risorto, la morte che, con il la morte che è la conseguenza, con il peccato che ne è la causa, non sono stati vinti. E quindi siamo ancora tutti soggetti in schiavitù. Tutti quanti. Ma così non è. E poi, sempre di San Paolo, abbiamo la lettera ai Romani 5, 17, i versetti 17 e 21. Prendiamo subito. Infatti, se per la caduta di un solo uomo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Non solo. Versetto 21. Come regnò il peccato nella morte, attenzione, così regni anche la grazia mediante la giustizia per la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Allora, diciamolo subito in due parole. Chi è il cristiano? Il cristiano è colui che, come tutti, passa per la morte corporale, perché quello è un prezzo da pagare post peccato originale. Ma il cristiano non sta nella morte dell'anima. Come ha regnato il peccato, così ora regna la grazia. Io peccati non li faccio. Attenzione ai peccati ad occhi aperti, i peccati grossi, perché noi al tempo stesso dobbiamo ricordare con l'offertorio della messa antica che innumerevoli sono i peccati, le offese, la negligenza che commettiamo dalla mattina alla sera, e che queste sì, che dipendono dal retaggio della condizione di natura decaduta che ci portiamo dal peccato originale. Ma un peccato grave non si fa. I peccati impuri non si fanno e si possono non fare. Non è vero che non si possono non fare. Le bestemmie non si dicono, le volgarità non si dicono per nessun motivo al mondo. La vita umana va rispettata dall'inizio al termine del concepimento, sto facendo alcuni esempi di peccati molto gravi. L'idolatria va fuggita come dalla peste bubbonica, sia l'idolatria in senso stretto, quindi adorare gli idoli, sia l'idolatria spirituale, adorare gli idoli del mondo. Un cristiano non può stare, non può essere un avaro in senso forte, cioè uno che sta così tanto attaccato ai soldi che non pensa ad altro, che non parla di altro, che sempre guarda pure i 5 centesimi e non dà manco una lira di elemosino di carità. Ma questo non è cristiano. Regni anche la grazia con la giustizia per la vita eterna. Allora, noi. La morte corporale sì, ma la morte dell'anima no. E la morte eterna tanto meno. Non dipende questo soltanto, che se, niente di tutto questo dipende soltanto da noi. Ma noi dobbiamo metterci la buona volontà però, amici miei. Sant'Ignazio, l'ho detto infinite volte, diceva sempre, Sant'Ignazio di Loyola, non Sant'Ignazio di Antiochia, fate come se tutto dipendesse da voi, sapendo che nulla dipende da voi. Questo perché? Perché come ha regnato il peccato nella morte, noi siamo stati battezzati. Così regna anche la grazia mediante la giustizia per la vita eterna per mezzo di Gesù nostro Signore. Alla luce di queste cose, io mi chiedo, l'ho detto in tantissime catechesi, però ripetita iuvant. Ma con che razza di coraggio i genitori di oggi, perché sono genitori di oggi, che la fede non ce l'hanno più, fanno stare un ragazzino mesi senza il battesimo? Anni a volte. Io non una volta solo ho battezzato bambini che già camminavano da soli e già parlavano. Proprio segno dei nostri sciagurati tempi. Ma chi è? Se credesse veramente che dove c'è il peccato c'è la morte, e se c'è sta il peccato originale, lì c'è sta la morte. Ma chi è che non si sbriga ad andare a fare la torta il più presto possibile? O così, Dio non voglia che uno commetta un peccato mortale, ma che aspetti andate a confessare subito. Io ho sempre detto ai fedeli, non fa quasi nessuno, che per le confessioni disponibile di giorno e di notte, cioè facciamo un esempio, sto facendo la diretta. Supponiamo che una persona si attaccasse al citofono che è attivo, no? Magari se fa soltanto una citofonata non gli rispondo perché. Ma se una persona si attaccasse adesso al citofono vuol dire che c'è un'urgenza, c'è qualcosa di grosso, sta morendo qualcuno o vuole confessarsi. Allora, vi direi subito, amici, quanto stiamo? Siamo a 42 minuti. Lexio brevis, catechesi finita, mi chiamano a confessare. Io vado. Perché se quello poverino sta in stato che ha perso la grazia, prima recupera meglio è. Ma no, chiamiamo domani mattina al parroco, adesso andiamo a dormire. No, non ho chiamato domani mattina, vieni subito, vieni. Certo, se mi interrompi una catechesi, mi chiamano alle 2 di notte, prima di che hai detto, che ne so, le bugie di scusa. Ok, fatto qualche atto di superbio, che c'è avuto qualche scatto di impazienza, magari questo si può aspettare domani mattina. Quindi non notiamo la chiarezza qui, siamo ancora alla rivelazione, ho soltanto fatto un accenno a un canone del Concilio di Trento e a un documento del Concilio Vaticano II e al Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi siamo ancora abbastanza in alto mare. E oltre a questo brano 17-21 abbiamo visto gli altri due, primo Corinzi 15-3 ed Ebrei 2-14-15. Ora queste cose vengono come dire commentate, chiosate, ecco, se si passa questa espressione un po' più aulica, dal Catechismo della Chiesa Cattolica, che nel numero 1009 dice: anche Gesù, il Figlio di Dio, ha subito la morte proprio della condizione umana, ma malgrado la sua angoscia di fronte ad essa, egli l'assunse in un atto di totale e libera sottomissione alla volontà del Padre. Attenzione, l'obbedienza di Gesù ha trasformato la maledizione della morte in benedizione. Allora, ma tutto quanto sto terrore della morte che gira adesso e che ha girato. Ma io domando e dico, ma da dove viene? Tutti terrorizzati della morte corporale. Ma c'è qualcuno che è terrorizzato della morte dell'anima? Che c'è molto da essere, c'è molto di più da essere terrorizzato della morte dell'anima. La risposta è no. Perché se ci sono il 70% delle coppie, siamo arrivati credo a numeri di questo genere, non c'ho sondaggi, non c'ho, ma vedo quello che vedo, non c'è, ormai io, guardate, ogni persona che io, Cristo è in una chiesa d'arte, quindi vengono a chiedere i matrimoni, di sposarsi, vengono sempre in due, ma vengono sempre col ragazzino. Che cosa vuol dire? Vuol dire che stanno convivendo. Questo è un peccato mortale, non è un peccato di gola. E loro stanno tranquilli con. Ma proprio zero. Però, perdonatemi, quando c'erano ancora le restrizioni, 400.000 mascherine fino a sopra i capelli. Non voglio fare polemiche di questo genere, ma questo che significa? Significa che della morte corporale, terrore. Della morte dell'anima, zero. se ti trovi in questa situazione. Ora io capisco anche, l'ho detto tante volte, che adesso siamo in un contesto storico in cui queste cose sono, come dire, assolutamente all'ordine del giorno, sono diffusissime, per cui io non mi sostituisco certamente al giudizio dell'Altissimo che valuterà personalmente quanto questa coppia è responsabile, fino a che punto, fino a che grado, insomma, no? Che tasso c'aveva di consapevolezza, quanto avrebbe dovuto essere formata e informata. Questo sono tutte tante cose che rilasciamo al nostro Signore, non ci interessano noi. Non si tratta di giudicare la persona o le persone, ma si tratta però di cogliere alla luce di queste cose in che razza di ambiente stiamo vivendo. E chi è che ci avrebbe paura della morte eterna? Lo dico io, nessuno, o quasi. A un parroco arrivano tante cose, no? Specialmente in un piccolo centro. E io che c'ho da confessarmi? Che mi devo confessare? Ma che faccio? Ma io sono tanto bravo, io quando muoio vado in paradiso prima di tutti, prima di quelli che vanno a messa la domenica, figurate. Sapete quanta gente che pensa questo? Tanta, ve lo dico, tantissima. Molto più di quanto noi pensiamo. Quindi, paura della morte eterna. Qualcuno addirittura pensa che non, dice che non esiste, ma voi capite che criminali che sono. Chi nega queste verità di fede e illude i fedeli che queste cose siano favole da medioevo, non c'è altro termine per definirlo che criminale, perché i criminali sono banditi, no? Per esempio, i criminali sono quelli che ammazzano la gente. Scusate, ma è più facile, è più grave ammazzare una persona o che è un grandissimo male, no? Sarà sicuramente gravissimo, adesso non mettiamo in paragone, ma scusate, ma ammazzare l'anima? Come dire, se non dico che l'ammazzi, potresti risorgerla, perché le anime, le morte alla grazia, tu dici Gesù è risorto, è una risurrezione continua, perché se te la fai una buona confessione come Dio comanda, tu risorgi, subito. È la prima risurrezione, che è preludio e figura della seconda risurrezione. E un cristiano come si relaziona nei confronti della morte? Tu, io, quando pensi alla morte, a che pensi? E ripeto quello che dico in continuazione, mettiti davanti a Dio. Sapete le grandi meditazioni, se prendete anche la Filotea di San Francesco di Salerno, nei primi capitoli dove sono gli esercizi preparatori. State proprio tranquilli che una delle meditazioni obbligata a un cult è la meditazione sulla morte. Allora, vedi come sono fatte quelle meditazioni? Se tu ti metti, immaginati il giorno della tua morte, come sarai arrivato? Ci avrai debiti da pagare? Ci avrai situazioni, come so, di mancate riconciliazioni ancora non risolte? Scandali non riparati? Peccati non confessati? Queste meditazioni fatte da santi, San Francesco di Sales è passato alla storia come il santo della dolcezza, quindi non certamente come il terrorista talebano. Andate a leggere la meditazione sulla morte di San Francesco di Sales. Se la fai, io l'ho fatta tantissimi anni fa perché lessi la Filotea e feci quella consacrazione alla vita devota. Stavo in seminario, c'è questa cosa qua. Vatta a fare una meditazione sulla morte. Io me la sono fatta sotto quando la feci all'epoca. Perdonatemi, come dire, non è un francesismo perché non è un'espressione volgare, però è un'espressione, diciamo, un po' feriale, ecco, per esternare, insomma, il fatto che non è che ti fai quella meditazione e ne esci come hai cominciato, se la fai seriamente, ma manco per niente. e che venga un pochino di salutare paura della morte corporale in quest'unico senso, solo in questo senso si può ammettere una paura della morte corporale, cioè io non sono pronto. Se mi prende oggi me ne vado all'inferno, quindi signore, posticipami un po' la morte corporale in modo tale che mi posso rimettere. Ma solo questo però. Questo sì, questo va bene. Il resto no, la morte per un figlio di Dio. Ma è la chiave di apertura di quella porta che è una vita che io ho desiderato che si aprisse. La porta della visione faccia a faccia, la porta della visione beatifica. Certamente dovrò farmi un bel po' di purgatorio, un pochino, a meno che non mi sono dato molto da fare sul pianeta Terra, eh. Perché se uno si dà molto da fare, il purgatorio si riduce di moltissimo. Dice, lo evito del tutto. Questo è molto difficile, ma non mettiamo limiti alla divina provvidenza. Certo, non è che eviti del tutto il purgatorio semplicemente se, che ne so, mangi un pochino più sciapo in qualche giorno, che è un sacrificio, certamente, che il Signore gradisce, che va a scontro dei propri peccati, però non è un gesto ascetico così forte, no? Così eclatante. Rimaniamo con queste considerazioni. La morte corporale, la morte dell'anima e la morte eterna. Si intitolerà così questa puntata, no? Qual è quella che ci fa più paura? Provate a farvi questa domanda. Quale ti fa più paura? La morte o la grazia? No? La morte dell'anima? La morte del corpo o la morte eterna? Qual è che ti fa più paura di queste tre? Davanti a Dio, non davanti a me, eh? Poi se qualcuno volesse fare la meditazione sulla morte, c'è cioè la filotea, se mi posso permettere, tanto questo è una cosa del tutto, lo faccia. Che ti fa bene, ci fa bene ogni tanto. L'abbiamo visto, credo, nelle volte scorse, perdonatemi che la mia testolina purtroppo è. Nelle cose che faccio è limitata. Grazie a Dio mi ricordo ancora le cose importanti su cui parlare, per ora. Poi vedremo. Quindi l'importanza di fare questa, di collocarsi, di mettersi. Tu che dici? Come stai dinanzi a questo problema? La gente, la morte, la esorcizza oggi, non ci pensano. Abbiamo già visto. Ma questo è un disastro assoluto. Bene, la prossima volta introduciamo soltanto, perché il tempo è quasi scaduto, se assolutamente non è il caso di aprire un altro argomento, però c'è un altro argomento molto molto importante. Lo introduco così. Cioè, la rivelazione del Nuovo Testamento, scusate, e la morte di Gesù, che abbiamo già accennato, che dovremo approfondire. Quindi, queste due dinamiche ci svelano due cose sulla morte ulteriore. Uno, che essa è espiazione del peccato ed è introduzione alla vita eterna. Lo vedremo la prossima volta. Io posso già accennare qualcosa. Cioè, se la morte è stata inflitta da nostro Signore come castigo estremo del peccato originale, è chiaro che la morte è un atto di espiazione. Nella meditazione sulla morte dici, accetto, Signore, che morirò quando tu vorrai, come tu vorrai, allora che tu vorrai, dice. Ma ci saranno le persone care ad assistermi? Quello che Dio vuole. Ma mi daranno una degna sepoltura? Ma quello che Dio vuole. Certo, consiglio a chi non è molto amante di queste nuove pratiche, perché qui qua, a quanto pare vanno molto di moda, di lasciare scritto da qualche parte, magari in un testamentino olografo, che non vuole per esempio essere cremato. Se no oggi con estrema facilità si va al forno, quindi espiazione dal peccato e introduzione alla vita eterna. Se ti dovessero dire c'hai 3 giorni di vita, tu come reagisci? 3 giorni di vita non sta purtroppo tempo di andare a riparare troppi peccati. Però che fai? Che fai? Dobbiamo chiedercele queste cose. Ripeto, questo ciclo di catechesi sarà importante perché ci pone dinanzi a delle realtà che è semplicemente folle non considerare. Ed è assolutamente invece fruttuoso farlo, come stiamo cercando di cominciare a fare. Bene, amici, vi saluto, vi ringrazio per chi ha seguito la diretta, anche stasera molto numerosi, e vi do come di consueto la mia con la benedizione, Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre e dovunque tutti vi protegga. Amen.